cose che non fanno bene, vivo di cose che non fanno bene. Dio santo, che vuoi che me ne porti? Non spendo certo sempre a coltivare dei rapporti, vado soltanto dove mi conviene, vado soltanto dove mi conviene. Dio santo, che cosa hai combinato? Non ti sei reso conto della merda che hai creato, una ricetta proprio andata a male, una ricetta proprio andata a male. Dio santo, che cosa c'è da dire? Che cosa devo fare per potermi maledire? Sei l'unico che io non vedo in cielo, sei l'unico che io non vedo in cielo. Da pulire, poco tempo per pensare, i mostri da nutrire, sono poco libero, fai discorsi da pulire, poco tempo per pensare, i mostri da nutrire, sono poco libero, quelli sporchi da pulire, poco tempo per pensare, i mostri da nutrire, sono poco libero, fai discorsi da pulire, poco tempo per pensare, i mostri da nutrire, sono poco libero, fai discorsi da pulire, poco tempo per pensare, i mostri da nutrire, sono poco libero.